4G. Ascolta e rispondi. Chiarisci la situazione? Sì, chiarisco la situazione. Spedisci la lettera? Sì, spedisco la lettera. Pulisci la cucina? Sì, pulisco la cucina. Finisci l'esercizio? Sì, finisco l'esercizio. Costruisci una casa? No, non costruisco una casa. Gestisci l'albergo? No, non gestisco l'albergo. Suggerisci la risposta? No, non suggerisco la risposta. Obbedisci? No, non obbedisco.